Oggi c'è la festa qua a Melazzo, c'è una bella sagra, sto capisco. Vino e musica. Adesso metto la... Vedo che... Allora, prendiamo un manifesto. Ok. Salve, buongiorno. Questa è buona da bere, no? Si beve, no? I think, yes. Ah, yes, sì. Ok. Penso di sì, sono termiche. Madonna. Sente che puzza, è di uova, marcia. Sempre dritto per Sassello, c'è 2 chilometri. Ah, 2 chilometri, allora andiamo a vedere. Sì, c'è una bella sagra. Va bene. Adesso metto, sì, prego. Ciao ragazzi. Non mettiamo, mettiamo un po' qua. Poi è vero, quello che presenta la Ehi, hey, è a casa, toma! Lui lavora in pubblicità. C'è una Santo Domingo, vicino al Centro America. Ok. Dicami. È cresciuto, guarda qua. Vedi, dovevamo con... allora scappa per quello, vedi. Era qua? Ehi, da qui. Vieni. Tu tieni la fidanzata italiana, eh? Come la devo dire? Vieni. Vieni, da qui. Aqui. Pensando que escapava. Já dá, já dá, já dá. Ei, pega. Aqui, aqui. Está bem, não está? Le tiene, repita, bien, vete, chiamo la toilette, eh? Ciao, bien. A mí, ¿eh? ¿Qué tienes? Tremendo. Aquí, a mí. ¿Vuelen darle? Fai quanti litri di acqua porta? Vale.